Amore mio, dove sei tu? Ti sto cercando, tesoro mio. Amore mio, dove sei tu? Ti sto cercando, tesoro mio. Amore mio, dove sei tu? Ehi, kya ga rahi? Apne pyar ko yaad kar raha hai aur keh raha hai ki aise nahi ga ke sunao na ga ke acha do lafzon ki Vola, prendelo, prendelo, amore mio.